Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia che vi racconterò oggi ci proietta nel cuore dell'Europa, in un momento storico molto difficile, quella del conflitto nordirlandese. Siamo tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90, 30 anni terribili, un periodo che per oggi è stato dimenticato, un periodo segnato dal terrorismo, ma dalla repressione violenta da parte dei militari di Sua Maestà Britannica, segnato da scontri sanguinosi tra lealisti protestanti e indipendentisti cattolici e dall'azione di un gruppo armato organizzato, diviso in tanti rivoli, ma noto a tutti nella sua radice principale, sintetizzata in una sigla, IRA, IRA. IRA, lo sapete, sta per Irish Republican Army, esercito repubblicano irlandese, e in una delle sue diramazioni era entrato giovanissimo il protagonista di oggi. Il suo nome? Robert Gerard Sands, detto Bobby, Bobby Sands. È un uomo morto a 27 anni nel carcere di Long Cash, il carcere detto il labirinto, morto dopo 66 giorni di sciopero della fame. Long Cash non era un penitenziario come gli altri, un'ala intera era stata costruita negli anni del conflitto in Irlanda del Nord per ospitare, se così possiamo dire, i militanti dell'IRA. Parte del carcere che era passata alla storia come gli H-Blocks, i blocchi H, un nome che per chi conosce la storia di Bobby Sands fa venire veramente i brividi solo a pronunciarlo, e iniziamo a raccontare proprio con le sue parole, le parole di Bobby Sands. Cominciai a camminare per la cella. Il freddo continuava ad entrare attraverso la finestra senza vetri ed io, con un solo asciugamano addosso, ne avvertivo tutta l'intensità. Dio mio, stavo proprio male. Sentii trascinare altri corpi lungo il corridoio. Quei bastardi gridavano come forsennati, divertendosi con il sangue e il dolore, nostri naturalmente. Chissà quando ci avrebbero dato una coperta. Una cella vuota e gelida, un corpo congelato, dolorante, coperto di segni neri e blu. Fuori dalla porta un mucchio di psicopatici che picchiavano giovani uomini fino a ridurli in poltiglia. E non era ancora l'ora di colazione. Robert Gerald Sands nasce a Abbots Cross, un sobborgo a nord di Belfast, 9 marzo del 54, zona a maggioranza protestante, governo della provincia britannica dal 22 senza interruzione. I protestanti sono lealisti, cioè fedeli al governo di Sua Maestà, mentre i cattolici sono a favore dell'indipendenza dalla Gran Bretagna. È un periodo in cui i cattolici sono discriminati, faticano a trovare lavoro, finiscono in fondo alla lista quando c'è da assegnare le case popolari. Tra le due comunità la tensione è sempre altissima, la famiglia Sands deve cambiare spesso casa per le intimidazioni e le minacce subite dai lealisti. Vanno nel quartiere di Rathcoll, dove i cattolici sono una minoranza però consistente, il 30%. Bobby è il più grande di quattro fratelli e sperimenta da ragazzo non solo la tensione tra le due comunità, ma anche la possibile integrazione che sembra così lontana dalla realtà nordirlandese. Gioca a calcio in una squadra mista, da questo punto di vista è un buon terzino sinistro, ma nel suo futuro, come in quello di tanti ragazzi come lui, non c'è lo sport. Bob lo imparerà molto presto. dal 66 in poi le discriminazioni dei protestanti nei confronti della minoranza cattolica a Red Skull cominciano a aumentare. Ogni giorno Bobby e la sorella sulla strada per la scuola devono passare sotto il lancio di bottiglie e di sassi da parte della gioventù protestante. Poi viene cacciato dalla sua squadra di calcio perché i cattolici non sono più ammessi. Il team cambia nome da Star of the Sea, Stella del Mare, a The K, K-A-E, un acronimo che significa Kill All Irish, uccidi tutti gli irlandesi. È una sigla che adotteranno anche le squadre di picchiatori anticattolici, quindi avete capito bene, una squadra di calcio che ha come sigla la frase uccidi gli irlandesi. I suoi vecchi compagni di squadra protestanti smettono di parlargli, il sogno di quella piccola integrazione finisce in un lampo. Questo è il clima in cui cresce Bobby Sands, come racconta sua sorella Bernadette. Così alcuni amici di Bobby, con i quali si era accompagnato per anni, entrarono nelle Tartan Gang e cominciarono essi stessi a bastonarlo o a venire a bussare alla nostra porta di casa canticchiando «Fuori i cattolici!». Tenere a bada mio fratello, c'è da capirlo, non era compito facile. Eh sì, perché Bobby non è un ragazzo che subisce, reagisce, non abbassa la testa, non porge l'altra guancia, lascia la scuola a 15 anni nel 1969. In quell'anno il governo inglese manda l'esercito in Irlanda del Nord. I cattolici sperano che i soldati intervengano contro quella che è una vera e propria persecuzione, ma le cose invece vanno in maniera molto diversa perché peggiorano. I militari guardano e i facinorosi protestanti si sentono impuniti, insomma il livello si alza, le bande di giovani, le Tartan Gang, dette così perché indossano una particolare sciarpa a tessuto scozzese, invadono i quartieri cattolici, bruciano le case strada per strada. E non parliamo di violenze che guardi in televisione, queste cose succedono anche nella strada dove abita Bobby. Nel 96 lascia la scuola, comincia un apprendistato in una fabbrica di autobus. A 15 anni la sua vita e quella della sua famiglia è ormai una vita fatta di minacce e di soprusi. Sentiamo ancora cosa dice Bernadette. La prima mattina che mio fratello si recò al lavoro, trovò sulla porta della fabbrica tre tipi che stavano pulendo dei fucili. Li vedi questi? Bene. «Se non te ne vai alla svelta, li proveremo contro di te», gli dissero. Ma Bobby era testardo e non si dette per vinto. Entrò in fabbrica e gli indicarono il suo armadietto personale. Lo aprì e dentro vi trovò un altro invito. «Se ci tieni alla pelle, fai subito fagotto». Fedele al suo cliché, Bobby rimase per 2 anni, al termine dei quali il direttore lo chiamò e gli disse: «Per cause di ristrutturazione interna siamo costretti a diminuire il personale. Da domani, così, sei licenziato». Il giorno dopo s'accorse che la ristrutturazione aveva colpito solo lui. E le minacce non sono solo minacce di pugni e schiaffi, sono minacce con pistole puntate in faccia: se non te ne vai da qui ti ammazziamo. Insomma, lo stesso Bobby Sands nei suoi diari racconterà che fu davanti a una pistola puntata che lui capì che l'unica sua strada possibile era la militanza nel movimento che dal suo punto di vista poteva contrastare quei soprusi, l'ira. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1971, Bobby Sands, il nostro protagonista di oggi, ha 17 anni, ha lasciato il lavoro per le minacce dei colleghi protestanti, fedeli al governo britannico, e il loro modo di essere fedeli alla regina comprende anche le intimidazioni, la violenza contro la minoranza cattolica. La situazione dei cattolici in Irlanda del Nord è diventata terribile, gli indipendentisti già dagli anni 20 hanno uno strumento per difendersi, uno strumento illegale, si chiama IRA, l'esercito repubblicano irlandese. Ma negli anni in cui si svolge la nostra storia, quella sigla assume un significato diverso. Intanto è divisa in vari sottogruppi, sono fazioni paramilitari che combattono in tutti i modi e anche con gli attentati e con le bombe. Nel 71 Bobby Sands si avvicina a uno di quei gruppi appena nato proprio con lo scopo di difendere i quartieri cattolici. Il gruppo si chiama Provisional IRA. Nell'agosto del 71, che è proprio il periodo in cui Bobby Sands, diciamo, entra nella lotta armata, il governo nordirlandese introduce una norma che permette l'incarcerazione senza processo. La norma ottiene l'effetto opposto, cioè viene data una nuova spinta alle adesioni alla lotta armata, perché ormai la disperazione è più forte anche della spinta verso la legalità, diciamo. Quindi quell'anno Bobby prende contatto con un conoscente che appartiene all'IRA e gli chiede di entrare nel gruppo. Il conoscente lo vuole dissuadere perché la situazione a Rathcoole, il suo quartiere, è veramente pericolosa. Non ci sono solo le aggressioni dei protestanti, ma anche la repressione violenta della polizia, dei soldati britannici. Bobby non demorde, alla fine entra a 18 anni nell'organizzazione. Ero solo un figlio della classe operaia di un ghetto nazionalista, ma è stata la repressione che ha fatto nascere in me lo spirito rivoluzionario di libertà. Avevo visto troppe case distrutte, padri e figli arrestati, amici assassinati, troppi gas, sparatori e sangue, la maggior parte del quale della nostra stessa gente. A 18 anni e mezzo mi unii all'IRA. Il 1972 è l'anno più sanguinoso. Il 30 gennaio avviene la famosa strage nota come Bloody Sunday, il vero punto di non ritorno del conflitto nordirlandese. Durante una marcia per i diritti civili a Derry, i paracadutisti dell'esercito britannico reagiscono ai lanci di pietre sparando sulla folla. Vengono uccisi 14 manifestanti, vengono ferite altre decine. Il principale effetto della strage, ovviamente, è quello di far crescere gli arruolamenti nell'IRA, di far esplodere la violenza anche dal fronte cattolico. Nelle strade di Belfast e Derry gli scontri sono quotidiani. A giugno del 72 la famiglia di Bobby deve lasciare il quartiere di Rathcoole, che di lì a un anno peraltro vedrà l'abbandono di tutte le famiglie cattoliche, cioè i protestanti vincono, riescono a cacciare tutti i cattolici, e la sua casa ormai è obiettivo dei lealisti. Ci sono le finestre sfondate da mattoni, spari nella notte contro l'edificio, tutto il repertorio della violenza e della sopraffazione. E i Sands si trasferiscono a West Belfast, l'area cattolica di Twinbrook, dove Bobby, che ormai è un membro della Provisional IRA a pieno titolo, partecipa alla sua prima riunione. È parte attiva del gruppo, si occupa di armi, partecipa alla pianificazione delle azioni, e stiamo parlando di una vera e propria offensiva militare contro le truppe britanniche, con attacchi quotidiani sia nelle strade cittadine che nelle campagne. E poi ci sono le bombe contro i cosiddetti obiettivi economici, pub, ristoranti, fabbriche. Bobby viene arrestato la prima volta nell'ottobre del 72 per possesso illegale di 4 pistole. Il primo incontro con il penitenziario di Long Cash, viene picchiato, torturato, subisce interrogatori violentissimi, ma non rivela i nomi dei membri della sua organizzazione. Rimane in carcere senza processo per 6 mesi. In aprile è condannato a 5 anni di reclusione. Sono un prigioniero politico. sono un prigioniero politico perché sono l'effetto di una guerra perenne che il popolo irlandese oppresso combatte contro un regime straniero, schiacciante, non voluto, che rifiuta di andarsene dalla nostra terra. Io difendo il diritto divino della nazione irlandese all'indipendenza sovrana e credo in essa, così come credo nel diritto di ogni uomo e donna irlandese a difendere questo diritto con la rivoluzione armata. Con la rivoluzione armata. E proprio in carcere lui rafforza la sua ideologia politica. Legge molto perché ancora è consentito leggere, poi passerà anche questa. Si appassiona alla rivoluzione cubana, agli ideali socialisti, è affascinato dalla figura di Che Guevara, dei suoi ideali rivoluzionari, ma studia anche l'altra sponda, diciamo, questione vietnamita, le battaglie dei nativi americani e quelle per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti. E la sua adesione all'IRA si rafforza perché ha una spinta fortemente ideologica, parla con gli altri detenuti, si confronta, scopre la voglia di raccontare, di portare su carta le sue riflessioni, comincia a scrivere, che è un'attività che continuerà ininterrottamente fino alla fine della sua vicenda umana. E si sposa in carcere quando viene a sapere che la fidanzata Geraldine è incinta. E poi esce dal carcere, esce dal Long Cache nel 1975, torna nella casa di famiglia West Belfast. La moglie intanto lo ha lasciato, è andata in Inghilterra col figlio nato da poco, Gerard. Lui riprende la sua attività con l'IRA. Nell'ottobre del 76 pianifica con altri un attentato dinamitardo a una fabbrica a Dunmore. La bomba esplode, ma mentre gli attentatori scappano vengono intercettati. Parte un conflitto a fuoco. Due compagni di Sands restano feriti, gli altri quattro, tra cui Bobby, cercano di scappare in auto, ma a pochi chilometri di distanza vengono fermati e arrestati. La polizia trova nella macchina una delle pistole usate nello scontro. I quattro non vengono accusati dell'attentato, ma sono processati per il possesso della pistola e la sentenza è dura, 14 anni di reclusione. Bobby Sands sta per tornare nel carcere di Long Cache, dove verrà rinchiuso nei famigerati blocchi H, e lui da quel carcere non uscirà vivo. Si avvia verso il lungo e doloroso epilogo della sua storia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la terribile storia di Bobby Sands, che con la sua morte avvenuta in un carcere speciale britannico dopo 66 giorni di sciopero della fame è diventato nel mondo il simbolo della resistenza nordirlandese. È cresciuto nelle tensioni, nella violenza dello scontro tra i lealisti protestanti e gli indipendentisti cattolici nella Belfast degli anni 60 e 70. Sands ha scritto le pagine più importanti della sua vicenda proprio dalla sua cella. Ha capeggiato le proteste dei detenuti contro le condizioni disumane di prigionia e ha combattuto una battaglia ideologica per essere riconosciuto come detenuto politico insieme agli altri militanti dell'IRA. Stesse richieste che abbiamo sentito fare anche dai terroristi delle Brigate Rosse, ma le differenze sono sostanziali, sono scritte nella storia, insomma, di qua figli di papà viziati e di qua gente che soffriva conflitto vero nella storia terribile dell'Irlanda del Nord. Credo di essere soltanto uno dei molti sventurati irlandesi usciti da una generazione insorta per un insopprimibile desiderio di libertà. Sto morendo non soltanto per porre fine alla barbarie dei blocchi H o per ottenere il giusto riconoscimento di prigioniero politico, ma soprattutto perché ogni nostra perdita qui è una perdita per la Repubblica e per tutti gli oppressi. Oppressi che sono profondamente fiero di chiamare la generazione insorta. Così scriveva nei suoi diari Bobby Sands, detenuto nei terribili blocchi H del penitenziario di Long Kish, una specie di inferno in terra molto più vicino a un campo di concentramento nazista che a un luogo di detenzione in un paese civile. L'abbiamo lasciato nel 77, lo hanno condannato a 14 anni di prigione per possesso illegale di armi. Dopo la condanna viene coinvolto in un tafferuglio in prigione e capisce subito, sperimenta nei suoi primi 22 giorni da condannato le cure speciali destinate ai prigionieri. La sua cella viene privata di ogni arredo o mobile, branda compresa. Lui è costretto a rimanere nudo a pane e acqua. È solo l'inizio. In carcere, già prima dell'arrivo di Bobby Sands, sono in atto proteste dei detenuti contro le condizioni disumane, contro i pestaggi costanti, le perquisizioni corporali approfondite, se così si può dire. Rifiutano di vestire le divise da carcerati, indossano solo una coperta avvolta intorno ai fianchi. Quanto dovremmo ancora patire, mi chiesi. Un corpo non lavato, nudo e distrutto da dolori muscolari, accovacciato in un angolo di un antro malsano, costretto a defecare sul pavimento dove gli escrementi non sarebbero stati rimossi e il cui odore si sarebbe mescolato al già insopportabile puzzo di urina e di cibo in decomposizione. Le percosse, l'acqua gelida degli idranti, la fame, le privazioni, che provino a dare un nome a questo terribile incubo. Eh sì, questa anche da dire a quelli che si lamentano di carceri di altri posti. Stiamo parlando di vere e proprie torture. Bobby Sands, durante la carcerazione, scrive raccontando di un vero e proprio inferno. Nel 78 i detenuti dei blocchi H iniziano la Dirty Protest, la protesta dello sporco. Rendono di fatto le proprie condizioni di vita ancora peggiori, spalmano gli escrementi sui muri, buttano l'urina sotto le porte e la ragione è il fatto che quando escono dalle celle per svuotare i secchi in bagno vengono sistematicamente picchiati dai secondini. La rivolta silenziosa dura 4 anni, ma il direttore del carcere non cede, non indietreggia di un passo. Riguardo alla rivendicazione dello status di prigionieri politici, la risposta delle autorità britanniche è un muro, anche perché al governo in quel momento, nel 79, c'è Margaret Thatcher, quindi si sta parlando di una che ha applicato la linea dura in molte parti della sua gestione del potere e soprattutto nei confronti della ribellione irlandese. Insomma, è pugno di ferro dalle strade di Belfast fino alle carceri di Long Kish, passando attraverso leggi speciali. Dopo 4 anni la protesta dello sporco lascia il posto allo sciopero della fame. Il 27 ottobre del 1980 7 detenuti smettono di mangiare. Resisteranno per 53 giorni fino a quando uno di loro, Sean McKenna, arriva a un passo dalla morte. Il digiuno termina anche perché ci sono delle promesse da parte del primo ministro inglese riguardo al regime carcerario. Bene, i detenuti non impiegano molto a capire che sono promesse che non verranno mai mantenute, non ci sarà nessun cambiamento. Bobby, che nel frattempo è il leader della protesta, decide di mettere sul piatto se stesso e la sua vita in un secondo sciopero della fame a oltranza. Il recente film Anger racconta di un colloquio tra Sands e un prete cattolico nel parlatorio del carcere, in cui Bobby comunica le ragioni di questa terribile decisione. In 10.000 hanno marciato per i 7 che facevano lo sciopero, giusto? Giusto. Pressioni internazionali sul governo inglese. Ho presente. Perfino il Papa ha detto la sua, è intervenuto. Tutto il mondo ha cercato di spingere la Thatcher a fare marcia indietro, ma non è servito a niente. Esatto. I leader sono stati molto chiari con me. 4 anni e mezzo di protesta dello sporco, è vero, sì, che hanno dato risalto al movimento repubblicano, ma ci hanno distolto da un più ampio sviluppo dell'organizzazione. Perché a una donna che cresce 3 figli a West Belfast dovrebbe importare dei vestiti tipo civile o come cazzo chiamano quei costumi da pagliaccio? Non è cambiato niente, qui non si è mosso niente. Il movimento è bloccato insieme a noi finché non ci sarà un passo concreto verso lo status politico. Questa è la realtà. E secondo lei vado a trattare con quegli schifosi rinnegati bugiardi quando non c'è niente sul tavolo? È merda allo stato puro. Non ci penso proprio ad andare dal direttore. Incastrarmi in una discussione inutile e imbecille con quel supponente bastardo. Bobby Sands inizia a rifiutare il cibo il 1 marzo del 1981. Decide che gli altri prigionieri si uniranno allo sciopero a intervalli regolari per aumentare l'impatto mediatico della protesta e per provocare pressioni sul governo britannico. Saranno ricordati come gli Hunger Strikers. Le condizioni di Sands peggiorano rapidamente perché il corpo è già provato dalla vita in carcere. Sands tiene un diario in quei giorni e scrive su pezzi di carta igienica con il refill di una birra il racconto di sofferenze fisiche, ma anche di una incredibile forza d'animo, quella di un uomo disposto a morire pur di affermare i suoi ideali. L'attore irlandese Michael Fassbender, che lo ha impersonato nel film Hunger, parla così. Bobby Sands knew he was going to die. He knew he Al di là della questione se si tratti di un suicidio o di un assassinio, la realtà è che Bobby Sands sapeva che sarebbe morto. Così come padre Moran sapeva che Bobby sarebbe morto e in ogni caso pensavano che ci sarebbero stati anche altri morti. Credo davvero che Bobby fosse consapevole di dover morire. Sapeva che sarebbe andato avanti fino alla sua fine e forse, solo dopo, ci sarebbe stata una tregua. Lo sciopero della fame provoca un'ondata di pressioni internazionali su Margaret Thatcher. Da tutto il mondo si chiede disperatamente l'apertura di un dialogo e si chiede agli Hunger Strikers di interrompere il digiuno. Papa Giovanni Paolo II manda il proprio segretario personale in visita a Long Cash a parlare con Bobby Sands. Bene, nulla incrina il muro innalzato sulla questione da Margaret Thatcher, che esprime il suo pensiero senza molte sfumature in una terribile e celebre dichiarazione. Un crimine è un crimine, non è un atto politico, è un crimine. E per nessun motivo può essere considerato politico. Il 3 maggio del 1981 Bobby Sands entra in coma. Dall'inizio dello sciopero della fame ha avuto 5 attacchi di cuore e 2 giorni dopo il corpo cede. Bobby Sands muore dopo 66 giorni di sciopero della fame. Margaret Thatcher commenta così: Bobby Sands era un criminale, ha deciso di togliersi la vita e aggiunge una scelta che l'organizzazione alla quale apparteneva non ha concesso a molte delle sue vittime. È stato il funerale repubblicano più grande di sempre, con migliaia di sostenitori di Bobby Sands arrivati da tutta l'isola, su pullman organizzati. Dopo la messa in suffragio di Sands, la sua bara è stata trasportata attraverso Twin Brook dagli uomini dell'IRA. 6 uomini mascherati affiancavano la bara, che trasportava il tricolore, gli stemmi dell'IRA, un cappello e dei guanti neri. Un elicottero dell'esercito volava rumorosamente nel cielo. Subito dietro la bara c'era il figlio di 7 anni di Sands, Gerald, arrivato 2 giorni prima dall'Inghilterra. La madre di Gerald, separata dal marito da 5 anni, non era presente. La folla ricopriva le 3 miglia da Twin Brook al cimitero di Northtown. E l'effetto della morte di Sands nei mesi e negli anni successivi è fortissimo. Non è la sconfitta dell'IRA come pensava la Lady di Ferro Margaret Thatcher, anzi, anche gli irlandesi moderati condannano la posizione intransigente del governo britannico e daranno forza elettorale al movimento repubblicano prima e al partito più vicino agli indipendentisti, lo Sinn Féin. In qualche modo, indirettamente, la morte e il sacrificio di Bobby Sands aiuterà i successivi accordi per l'autonomia dell'Irlanda del Nord. Se non riescono a distruggere il desiderio di libertà, non possono stroncarti. Non mi stroncheranno, perché il desiderio di libertà e la libertà del popolo irlandese sono nel mio cuore. Verrà il giorno in cui tutto il popolo irlandese avrà il desiderio di libertà. Sarà allora che vedremo sorgere la luna. Ci sono persone che per un ideale o semplicemente per resistere a delle sopraffazioni hanno saputo volare in alto, dare un colpo d'ala anche terribile, anche a costo di perdere la loro vita. Questa è la storia di un martire, la storia di Bobby Sands. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, il mio Facebook, il mio Twitter, i nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.